Yes, people, questo è Jolly Roger. Yes, people, torniamo in diretta finalmente dopo un po' di fermo. Questo è Jolly Roger, anzi l'original Jolly Roger. Siamo in diretta dal Brancaleone e ringraziamo come sempre Idea Prisma che ci ha permesso di realizzare questo progetto lab radiofonico. Ringraziamo il Brancaleone, che è il posto fisico dal quale andiamo in diretta, e ringraziamo, visto che siamo in compagnia, anche loro, le signore del Gas, gruppo acquisto solidale. Con questo vi invitiamo a passare a venirci a trovare. Intanto partiamo con la prima nostra canzone che abbiamo scelto per tutti quanti voi. Sto correndo veloce da un po'. Sono grossi i miei piani, li ho qui tra le mani, li stringo più forti che posso. Ho detto a me stesso che un giorno anche avrei messo la testa a posto, ma in questo posto io non conosco nessuna parte, i miei amici di sempre, mentre sta gente mi grida addosso. Quando fumo sto sulla luna, lei mi dice non avere paura, a 200 all'ora senza cintura, non posso frenare, arrivo tu fammi passare, scusa. La gente qui ha sempre una scusa, sbaglia ma poi non chiede scusa, nemmeno dopo che ti usa. Dimmi cosa aspetti da un po', da me che ti aspetti ora. Il tempo si ferma per noi, questa notte è nostra. Giovani re, piccole star, si ricorderanno di noi, di noi. Via dal quartiere come leggende da bar, quando parleranno di noi, di noi. Torniamo in diretta, questo è Jolly Roger. Allora, praticamente anche questa settimana il gruppo non è al completo, purtroppo manca Luca, che salutiamo visto che ci sta ascoltando da casa, e manca Chiara. Però c'è Alice, che anche da un po' che purtroppo non è stata in presenza in radio, e ora passo direttamente il microfono a lei, così vi saluta e introduce quello che è il suo argomento della puntata di oggi. Ciao, sono Alice. Oggi vi parlerò del nostro pianeta e quanto è importante prendersene cura. Ognuno di noi può salvare il pianeta. È semplice. Basta ricordarsi che a casa è casa nostra e ci ospita da più di 2 o 4 milioni di anni, quindi dobbiamo esserci grati e rispettarla. Ottimo Alice. Alice ha scelto un pezzo che ora dirà insieme a me, che sarebbe... Quale pezzo, dici un po', Alice, ha scelto? Roma Bangkok. Visto che si parla ambiente, visto che si parla di geografia da nord a sud, noi andiamo da Roma a Bangkok. Perché ho voglia di far festa. Se non importa il trucco e la bellezza in testa. Abbiamo visto il cielo piangerci addosso, perciò balliamo ora che il sole è nostro. Voglio una musica che mi ricorda l'Africa. All'improvviso tutto il mondo cambia pagina. Innamorarsi con la luna nel mare, partire e tornare senza sapere quando. Andata senza ritorno, ti seguire fino in capo al mondo. All'ultimo secondo volerei da te, da me. E intanto noi qua ce la cantiamo. Stacca dal tuo lavoro almeno per un po', la vita costa meno, trasferiamoci a Bangkok, dove la metropoli incontra i tropici e tra le luci diventiamo quasi microscopici. Abbassa i finestrini, voglio il vento in faccia, alza il volume della traccia, torneremo a casa solo quando il sole sorge. Questa vita ti sconvolge senza sapere quando. Andata senza ritorno, ti seguire fino in capo al mondo. All'ultimo secondo volerei da te, da Milano fino ad Hong Kong, passando per Londra, da Roma fino a Bangkok, cercando te. Anche i muri di questa città mi parlano di te. Le parole restano a metà e più aumenta la distanza tra me e te. Giuro questa volta ti vengo a prendere e senza sapere quando. Noi da Roma fino a Bangkok, a Roma ci siamo ritornati alla grande. È mancato Ciccio la settimana scorsa, anzi sì, siamo mancati un po' tutti quanti. Manca quella che è una rubrica molto importante per noi, che intanto la introduciamo così. Eccoci qua, allora, questo è il nostro approfondimento calcistico, nei migliori programmi ci invidiano questa rubrica. Ora passo il microfono a Matteo e ai suoi pronostici. Oddio, partire dopo di 2, l'Indipendenza 2-1. Anni 18, la giornata è alle 5 e partire è la domenica 23, Epi Roma, alle 18, Milan Juve, alle ore 5, Napoli alle ore 18. Pronostico. Lazio. Lazio 3-5. E l'Empoli Roma 3-1. Mia Juve 2-3 e Napoli Italiana 2-4. Allora, questi sono i pronostici di Matteo. Chiaramente noi invitiamo chiunque a giocare questi pronostici e soprattutto chiunque vinca è ben accetto qui al Brancaleone per offrirci almeno un succo di frutta, niente di che. E allora noi partiamo ora col pezzo che ha scelto Matteo e diamo di Music. Non mi importa lo che de mi se diga, vive usted su vida che io vivo la mia, che solo è una, disfruta il momento, che il tempo si acaba y pa' atrás no verá. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Mi cielo, come sempre anche qui a Jolly Roger siamo sempre fresh. Sube la mano y la botella pa' arriba, siempre la móvil la tenemos prendida, vengo a mandarla hasta que se haga de día, sigo rulito que es la mía. Salió el sol, we'll be right back. E torniamo in diretta sempre dal Brancaleone. Proseguiamo con la rubrica di Matteo e soprattutto con quelli che sono gli infortuni. I puntoni, ah, allora, i puntoni, tappata, Piero, metà gennaio, la Juve, Bonucci, problema, grande, che da giorni, tanto, non corti tanto, non puoi, beh, la Lazio, Petro, giuro, Diretta inizio. inizio febbraio, Roma, Pellegrini, inizio febbraio, Pignarolo, rotura, Che si è rotto? Achille, poi, difitati, l'Inter e Vidal, Martinez, la Juve, Pinacchi, Danilo e Locatelli, la Lazio, Luzzapetto, Luis Vive, Amaric, Milan e Nadez, Ficati, la Lazio Canati, una giornata stata l'altra. Candini, Pinetti, Brunetti, una giornata stata più di no. Eccoci qua. E allora, visto che abbiamo parlato di calcio, ora torniamo alla parte che riguarda un po' la musica. Un bacio all'improvviso. Ci crediamo perché ogni volta che veniamo in diretta c'è sempre qualche problema, qualche cosa all'ultimo, ma a noi ci piace così, non ci piace vincere assolutamente facile. Quindi, visto che è saltata un po' la connessione, un po' siamo saltati noi come sempre e come tutti i venerdì, riprendiamo quello che era lo spazio di Matteo che ci rielencherà al volo tutte le partite facendo una sintesi e chiaramente il suo pronostico. Le partite sabato 22, Inter Venezia 2-1, l'Atalanta 3-5, domenica 23, Empoli Roma 1-0, Milan Juve 2-3, Napoli Fiorentina 2-4. Perfetto, rapidi, indolori, velocissimi. Noi rinvidiamo, nonostante abbiamo registrato il programma, sarà in podcast. Noi, detto questo, ricordiamo a tutti quanti, qualora qualcuno vincesse, in base ai pronostici di Matteo, dateci gli esordi, ma quelli veri, e noi proseguiamo con la musica. Coppo Beat e Fabio Masta, Rocco Angi, Clementino, Differetta, Lana White, Campania Basta, New Union Style, Ross, Salerno, S.A., Zeta Rocco, Bro, Chiesa, Clementino, Frate, ma c'è se tu Mario Sol, ma manca l'aria, mo frate, ma l'aria Sol. Aspetta rete a finestra fin quando piogge, non c'è se ma mi ritassa una chance, ma logo ne concesse. Frate, ma c'è se tu Mario Sol, ma manca l'aria, mo frate, ma l'aria Sol. O gas che aumenti, o fumo che trassi da l'uoglio, una cassa potente che trassi di capra a gente. Prego per frate mio, camarone la cubagna, go pa' giusto a vivere, mi coriavo le semagne. C'è ancora mo cerca luce, reto buche una persiana, c'è ancora troppo fiducia, per una birra che hanno a mano. Troppi frate mezza vita, speranza e una fatica, quando ti uscita a mattina, piezza che la vita fa schifo. Ogni giorno è tale quale, quando passerete cielo, ogni frate che non molla, il futuro sta all'inferno, non essere triste. Se alla fine meglio in un po' volentieri, tombe bianche e cimitero, la vita non è come vangelo. Nata mamma che mo chiaglia, perché ho figlio in sarrapiglia, preferito dire a morte, se consolo con una rete. Lucro balcone, fammi piglia e sigarette. Fa piacere a chi non scende, perché libertà ristretta. Perché la vita la costretta, appunto fiere da bragasse. Perché la vita mette stretta, chiude a nante e chiude scasse. Giova forte, nengo colpo, ogni rimorso brucia un colpo. Fammi chiaglia e bagno volto, tutto resta gira storto e non ho vero. Caroppa che giova l'arcobaleno, solleva e bene, mette tutte cose a posto solo. La speranza è l'ultimo che amore, ma spesso è la prima che t'abbandona. Mezzo grigio e sostratone, ma rosso all'amore, la giletta in te poesia. Ma spesso è un'eresia che fa male, poto ma una volta. Frate, ma c'è se tu Mario Sol, ma manca l'aria, mo frate, ma l'aria Sol. Aspetta rete a finestra fin quando piogge, non c'è se ma mi ritassa una chance, ma logo non è concesso. Frate, ma c'è se tu Mario Sol, ma manca l'aria, mo frate, ma l'aria Sol. O gas che aumenti, o fumo che trassi da l'uoglio, una cassa potente, trassi di capra a cento. White Rocco Ant on the night, smoke the blunt, hydro. Salirne in Napoli, frate, ma vai mo. E planci tatanica, arancia meccanica, gancia più chimica, lyrical drugs con spirit in panica. Su smog e non fracass, l'unico spog fracassa è rullante, con stress te passa e chi cara cullass. C'è sta chi soffra reta, si sbar. Aumenta nel carro e si spirra, ma tena non canna. Clementine, spacca e vetrin, crack e patrin. Maccarone e vin, paccaro regime, poca raricina, poca candegina. Tutta vir, fino a indegengiva, l'aria non si respira e non stai più attivo. Fino a e questa un po' la dedichiamo anche a Lucone, che anche lui oggi purtroppo non può essere parte del gruppo. Città che non sei, frate, ma c'è se tu Mario Sol, ma manca l'aria, mo frate, ma l'aria Sol. Aspetta rete a finestra fin quando piogge, non c'è se ma mi ritassa una chance, ma logo non è concesso. Frate, ma c'è se tu Mario Sol, ma manca l'aria, mo frate, ma l'aria Sol. O gas che aumenti, o fumo che trassi da l'uoglio, una cassa potente che trassi di capra a cento. E ritorniamo in diretta sempre qui dal Brancaleone, sempre e solo Jolly Roger, l'originale Jolly Roger. E originali siamo, io passo il microfono ad Alice. Oggi vi parlerò del nostro pianeta. 7 consigli per prendersi cura del pianeta. 1. Riciclare, evitando sprechi, creare meno rifiuti, riutilizzare i materiali. Riciclando si possono riutilizzare i materiali di scarto. I nuovi

E noi proseguiamo con la musica. G-U-A. Se stanotte muoio in questa suite, dita Universal di far uscire le mie nuove hit. Così. Questo tutto flow original Milano style, poi passeremo anche a Roma style. Bitch, yeah, fra tutti senti forte, ma io ti sento in forze. Tu sei un attore, io un alligatore, Cayman Porsche. Sputo su una generazione in posa. Conosco i veri Tony, conosco i veri Sosa, yeah. Ti avvolgono di riso, ha, ha, ha, come un nigiri. Sono come un regista, lei vuole che la giri. Parlo di più coi morti, li preferisco ai vivi. Prendimi bene in testa se miri. Gli occhi cico non mentono mai. Lo vedo nei tuoi occhi cico, sento che mi vuoi. Baby fatti anche ammazzare. Non mi importa di soffrire, Gli occhi cico non mentono mai. Lo vedo nei tuoi occhi cico, sento che mi vuoi. Tutto il cash non può comprare una che non ti sa tradire, Ok, gli occhi cico non mentono mai. E tu sei la mia piccola copia come un bonsai. Anche se ti vedi in giro come un leader, tu lo sai che sei finto come le piste di neve a Dubai. Ti vedo tutti insieme, si incoraggiano da soli. Ma qua nessuno li teme, nessuno gli deve soldi, nessuno li vuole morti. Tanto già sono innocui, se la situazione cada si squagliano come ghiaccioli. Per me è un parco giochi, come sparare fuochi. Lo uccide lo sistema in una bara con due fiocchi. Non è che prima ti sfoghi e poi gli haters li blocchi. Questi hanno paura, fra glielo leggo negli occhi. Gli occhi cico non mentono mai. Lo vedo nei tuoi occhi cico, sento che mi vuoi. Baby fatti anche ammazzare, non mi importa di soffrire, Gli occhi cico non mentono mai. Lo vedo nei tuoi occhi cico, sento che mi vuoi. Tutto il cash non può comprare una che non ti sa tradire, Se sopravviveremo portami a bere. Non dirmi che mi ami, non ti crederei. Le 5 di mattina svelano chi sei. E in quegli occhi rossi ci ritrovo i miei. Ho fatto un bel miscuglio, è tutta sta Don Julio. Mi fa sentire Giulio, Cesare va in pasto ai bulldog. Cade la neve a luglio, ti sgamo anche nel buio. Suono sti fake come un tamburo, scemo, senti il rullo. Gli occhi cico non mentono mai. Lo vedo nei tuoi occhi cico, sento che mi vuoi. Devi farti anche ammazzare. E Jolly Roger non ti sa tradire. Allora, Jolly Roger è un progetto. Ora volevamo fare una riflessione velocissima. Ora parleremo un attimo della Locanda Atlantide, che finalmente e molto probabilmente aprirà nel Parco degli Acquedotti dell'Appia Antica. L'ipotesi si sta facendo concreta dopo l'incontro fra le varie istituzioni. Un incontro positivo a quanto pare, perché consente di paventare quella che era praticamente l'ipotesi di chiusura che circolava la settimana scorsa. Quindi noi siamo contenti di questa risoluzione, soprattutto perché la Locanda dei Girasoli sta diventando una realtà non solo romana, soprattutto è capostipite di tanti progetti che riguardano l'inclusione. Jolly Roger è proprio un centesimo di quella che è la coda di vari progetti che esistono, progetti che purtroppo trovano sempre difficoltà, un po' politiche, un po' istituzionali, un po' per mancanza di fondi, quindi è una situazione particolarmente brutta, ma noi non ci fermiamo, anche con zero lire, ma soprattutto con tanta energia e con tanta voglia, proseguiamo nei nostri intenti e nella nostra volontà di attuare quello che consideriamo una vera inclusione per tutti e tutti. Detto questo, continuiamo la puntata di Jolly Roger. Passiamo un pezzo che aveva scelto Luca, che purtroppo, come ho detto prima, non è qui in nostra compagnia, ma che salutiamo con un pezzo che ha scelto lui. Torniamo piano piano in diretta. Atlantide. Quindi scusate la gaffe, ripeto, era Locanda dei Girasoli e non Locanda Atlantide. Noi torniamo qua in diretta, siamo, come dicevamo all'inizio puntata, siamo in pochi ma buoni. Manca Luca, manca Chiara, manca Lucone e manca il nostro amico Giovanni. Quindi passo il mic ad Alice, che voleva fare un saluto ai nostri amici non presenti. Ciao, ciao Luca, un bacione a te e a tuo fratello, un bacione. Ciao Chiara, anche a te un bacione. E noi proseguiamo con un pezzo che aveva scelto sempre Luca e andiamo con la musica. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't worry about me. I'm about to let my heart speak. My friends keep telling me to leave this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. business. Back and forth, back and forth with the bullshit. I know I said it before, I don't mean it. It's been a while since I had your attention, so it might hurt to hit it. Fall away. We can't leave them if we stay the same. And I can't do this for another day. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. E torniamo in diretta sempre dal Brancaleone. Allora, ricordiamo che praticamente la puntata potete trovarla nella pagina di archive.org Pirate Radio. Troverete tutti i podcast che riguardano sia Jolly Roger che gli altri programmi. Siamo in diretta, come dicevo, dal Brancaleone. Brancaleone, come tutti diciamo i circoli arci in questo periodo, le attività sono ferme, ma nonostante tutto qui al Brancaleone troverete degli eventi con presentazioni dei libri. Stasera ci sarà Johnny Palomba con le sue recensioni, il 28 Vanni Santori e il 3 febbraio Veronica Raimo. Questi sono alcuni dei vari diciamo appuntamenti che sono in calendario. Li ricordiamo perché soprattutto il Branca ci permette di andare in diretta, e soprattutto perché noi crediamo e sosteniamo questi spazi per diciamo che promuovono attività come la nostra. E ora proseguiamo con la nostra scelta musicale. Proseguiamo così. Lo sai, la testa ammalata. Lo sai, non voglio pensarti. Problema che ti ho trovato, ho continuato a cercarti. Mi sono perso sul fondo, ho fatto pezzi le foto. Un istante acquista valore solo se diventa un ricordo. Allora fatti da parte, giro solo sto meglio. Voglio farmi del male, restare tre giorni sveglio. Stanotte ho perso le chiavi, un biglietto è sul parabrezza. Vuoi qualcuno che ti ami o che lenisca l'insicurezza? Non dormo già da un po' in questo stupido motel. Secco come un no, sai che ho dubbi come un forse. Sto provando ancora a dare un senso, mi uccide se ripenso che sei la fine del mondo. Come mai, fuggiamo da questa dubbia. Siamo in Italia, conta solo su di te, su di me. Questo amore è un comité, un comité. Fine del mondo, come mai, l'ultimo tiro che mi sta. Passato, portando via il mio rispetto. Sei la persona sbagliata, ma il momento è perfetto. Lo sai che passano gli anni e tu non sembri la stessa. Stretta dentro i tuoi panni, brilli solo di luce riflessa. Dicevi la mia vita non è niente di che. Allora dimmi perché stavi proprio con me. Se l'amore è vile, dovevi fuggire. Sparo ancora a persi a colpi di fucile. Sono rose in fiamme, strette sulle spine. Scrivo con il sangue la parola fine. Non dormo già da un po' in questo stupido motel. Secco come un no, sai che ho dubbi come un forse. Sto provando ancora a dare un senso, mi uccide se ripenso che sei la fine del mondo. Come mai,

chi pensava una rinuncia. Casse rotte suona ancora forte sul buncia. Calo con la posta e con l'impianto che brucia. Col flow come company, pompa mi porta fiducia. Se lui si muove leve fra le nuove leve, kamikaze sul palco farà night 9-11. E in questa scena di Anthem, Coez, Broke Spigets. Hai preso bene, io cash non ne ho, no. I buffi Alessi hai mica il borderò, no. E se tu te ne vai io vi porterò il golden flow, Broke Spigets on the road, the rock and roll. Nella radio non passa ma rullante una cassa che uccide. Prima che tutto casca nella tasca ho risorse infinite. Nella radio non passa ma rullante una cassa che uccide. Prima che tutto casca nella tasca ho risorse infinite. Casse rotte in esclusiva, suona merda recidiva. Faccio un passo dopo l'altro dentro l'offensiva. Carico l'artiglieria, casse rotte fanteria. Resti nella scia, fanculo dalla zona mia. Chi pitria con i pugni e le corna in alto. Testa di cuoio nell'impianto, calca l'asfalto. Al completo formazione a pentagono sul palco. Quando salvo, quadrato compatto d'assalto. 7-8 for droppa le bombe. Dai tempi di Fine Roma Blend e una bomber. Tuoni fermo, ricomincio e voi sparite. Barrica le uscite, a casa non tornate. Da Broken Speaker. Nella radio non passa ma rullante una cassa che uccide. Prima che tutto casca nella tasca ho risorse infinite. Nella radio non passa ma rullante una cassa che uccide. Prima che tutto casca nella tasca ho risorse infinite. Io sono brutto e stonato, nato dentro al posto sbagliato. Ma sul palco quello con più fiato, pochi capelli e mal curato. Mi vesto pure male, per questo fuori posto nel mercato. Schifato da sti rapper di adesso. Se non facevo il rap si scopavo lo stesso. Se non facevo il rap ero un ragazzo depresso. Ma riesco a fare il rap rimanendo me stesso. Mi capisci adesso? Fuori luogo in ogni posto. Disprezzo la metà delle persone che conosco. Rispetto la metà della metà della metà della metà di chi non sta nella prima metà. È una scena senza fantasia, quindi torno con la banda mia e famo pulizia. E se mi parli di pazienza io non so che sia, no. Ma se parli di coerenza stiamo a casa mia. La poesia della mia generazione non è morta. Stiamo qua per darte le prove, quindi ascolta. Non siamo arrugginiti ma stiamo cattiviti. Senza rancori più valori in mezzo a falsi miti. Fra una massa dei rincoglioniti abbassano la testa per la merda da cui so colpiti. Rimani fra chi sogna e trovi rogna qui. Broken Speakers back in business come PMD, sì. Nella radio non passa ma rullante una cassa che uccide. Prima che tutto casca nella tasca ho risorse infinite. Nella radio non passa ma rullante una cassa che uccide. Prima che tutto casca nella tasca ho risorse infinite. Anche Jolly Roger ha risorse infinite. Ultimi pezzi per noi, nonostante i vari e vari problemi tecnici, i ragazzi, ora Alice e Matteo vi salutano. Ciao! Ciao! Allora, noi scegliamo un ultimo pezzo, intanto ricordiamo di scaricare e ascoltare i nostri podcast con le puntate precedenti, man mano ce ne saranno sempre di più perché Jolly Roger proseguirà. E niente, nonostante tutto, nonostante gli alti e i bassi, che è la canzone con la quale chiudiamo, dei Colli del Fomento, vi salutiamo e ci sentiamo la prossima settimana. Dai, con tante news. Dai, è questa donna! A volte come un re senza esercito, senza trono né corona né scettro ed una spada in prestito. A volte muovo solo il lessico per come gli sto, ti porto dove gli sto, è un gusto acido. Porto con me la pressione, la confusione, ne faccio un'arma calibrata dalla condizione. Per stare fuori e dentro senza approvazione e stare a testa alta in mezzo alle persone col mio nome. A volte tutto quanto cambia si allontana, a volte sono incubi da filigrana. Finché non suona la campana, ancora un altro round per mostrarglielo a quei figli di puttana. Ci vorrà un giorno intero per finire il giorno e sarà dura. La spada non uccide, uccide la paura. E se la notte sembra scura, è solo un altro giorno, un altro inverno. E ce lo so che la vita è dura. Troppo poco il tempo per sprecarlo, cresce la sfiducia.